La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea di questo weekend a cavallo fra aprile e maggio, e buon primo maggio per chi ci ascolta nell'edizione domenicale. La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, l'ora di cinema dei nostri ascoltatori, in una settimana piena di ospiti nella nostra puntata e piena anche di film, ben 9 quelli che trovano la via della sala in Italia in questo weekend. Su tutti c'è l'attesissimo Thor, l'ennesimo, uno degli ultimi forse ormai, manca Capitan America e pochi altri, fumetto americano che arriva in celluloide. Ma andiamo subito a sentire quali sono i contenuti particolari di questa puntata della Rosa Purpurea nei nostri titoli di testa. Il figlio di Odino nei cinema italiani. Arriva nelle sale Thor, ultimo prodotto del mondo dei fumetti americani che diventa film. Ne parliamo con un ospite d'eccezione, il regista Maurizio Nichetti. L'amore fra il professore e la marchesa al centro di Notizie degli scavi, con Beppe Battiston e Ambra Angiolini. Il film segna il ritorno in sala di un grande regista italiano come Emidio Greco, ospite della Rosa Purpurea. Dalla Francia arriva Angèle et Tony, migliore opera prima francese del 2010. Sullo sfondo della Normandia, la storia di un amore difficile ma non impossibile fra un pescatore e una vagabonda. Un treno fatto esplodere dai terroristi e un soldato costretto a rivivere quella tragedia più e più volte attraverso le tecnologie, finché non troverà gli assassini. Jake Gyllenhaal, protagonista di Source Code, il film più sorprendente del weekend. Ho compiuto grandi sacrifici per ottenere la pace. Thor, attraverso la tua arroganza e stupidità hai esposto questi tranquilli regni e vite innocenti all'orrore e alla devastazione della guerra. Sei un ragazzo avido, crudele e arrogante. E tu sei un vecchio e un folle! Non sei degno! Padre... Ehi! Ora mi riprendo i tuoi poteri! E ti bandisco! E c'è un po' tutto il mondo di Thor, di Odino, in questa premessa che vi abbiamo voluto far ascoltare, proprio parlando di Thor. Regia di Kenneth Branagh, ed è il nome che si cercava in produzione per dare una patente anche di attesa da parte di un pubblico più adulto. Kenneth Branagh, il più grande regista shakespeariano dei nostri tempi. Nel cast Chris Hemsworth nei panni di Thor, identico a quello del fumetto, davvero fortunata scelta di casting. Natalie Portman, Stellan Skarsgård, insomma un cast importante. Avete sentito, dicevo, un po' Odino e la sua lite con il figlio primogenito Thor, uno che tende un po' a menar troppo le mani, diciamo così, nel possibilmente, probabilmente pacificato regno di Asgard. Non troppo pacificato, perché appunto Thor ha un caratterino e mette un po' in fibrillazione tutto, perché una guerra sta per arrivare da quelle parti. E allora Odino lo bandisce, lo manda sulla Terra per punizione. Si vede che la Terra per Odino è un posto dove scontare una punizione. Attraverso una sorta di spazio e di raggio spazio-temporale, Thor piove proprio sulla Terra, letteralmente picchiando al suolo e incrociando in una notte stellata del New Mexico una pattuglia di scienziati. Prendi il kit di pronto soccorso! Ti prego, fa che non sia morto. Serve la rianimazione cardiopolmonare, io so farla. Ma da dove è saltato fuori? Oh! Stai bene? Martello! Martello! Abbiamo finito i chiodi, peccato. È ubriaco. Oh no, Eric. Guarda qui. Dobbiamo muoverci in fretta prima che tutto questo cambi. Jane, dobbiamo portarlo in ospedale. Padre! Sto bene, guardalo. Heimdall! So che puoi sentirmi, apri il Bifrost! Ospedale, tu vai, io resto. Voi, che regno è questo? Alfheim? Nornheim? New Mexico? Tu osi minacciare me, Thor, con un'arma così... Insomma, come avete capito, Thor all'inizio ci fa un po' la figura dell'ubriaco, perché lo beccano così in mezzo che vaga, dice parole senza senso. Pian pianino scopriranno appunto questa pattuglia di ricercatori, fra cui appunto Natalie Portman e Thor, cioè, scopriranno la natura e la provenienza di questo semidio piovuto dal cielo, mentre invece nel regno di Asgard l'Odino, interpretato da Anthony Hopkins, ha i suoi problemi di salute, il fratello malvagio Loki ne approfitta ed è uno invece che forse non menava le mani in tempo di pace, ma tende molto a menarle in tempo di guerra. Insomma, ne viene fuori una sorta di momento, anche qui molto shakespeariano, dove un fratello si impadronisce del potere di un padre malato e sulla Terra Thor cerca di dimostrare, attraverso la dura vita e privato dei suoi poteri e soprattutto del potere magico del suo mitico martello, di essere un vero eroe. Allora, questo è Thor, poi chi ha letto i fumetti lo conosce. Cosa funziona e cosa non funziona? La produzione è ovviamente colossal. La parte sulla Terra è molto ironica, dobbiamo dire, pervasa da un'ironia che si prende un po' poco sul serio, e questo sicuramente fa bene al film, che ha anche momenti molto divertenti. La parte invece su Asgard, più epica, più col petto in fuori, forse soffre di una scenografia troppo stilizzata, quasi di plastica, che sembra quasi appartenere a un periodo del cinema molto molto passato. Oggi forse si potrebbe fare un po' di meglio su quel fronte. Come abbiamo detto, veramente forse è stato scelto il buon Kenneth Branagh, perché la dose di shakespearianità di questo film è davvero molto molto elevata. Sentiamolo allora, Kenneth Branagh. There wasn't anything I ever did in Shakespeare. Non c'era niente di quello che ho fatto di Shakespeare che non avesse come oggetto il dibattito intenso e appassionato da parte delle persone che si autodefiniscono puristi. Con i fumetti, specialmente quelli di cui ho parlato al Comic Con, non puoi che fare di più. Non si può mai essere abbastanza grati per l'incredibile livello di interesse, e amo questo. La quantità di interesse nel tuo film di fronte al tempo è preziosa e affascinante. Ti aspetti qualche piacere da qualcuno? No. Ti aspetti di intrattenere qualcuno? Sì. E forse si potrà discutere su tutto, o si potrà discutere comunque. La rosa purpurea. Ed eccoci qua ancora insieme, seconda parte della Rosa Purpurea. Abbiamo parlato di Thor nella prima parte del programma, abbiamo detto il penultimo, almeno a memoria mia, poi sicuramente ne troveranno tanti altri, però il penultimo grande personaggio del fumetto americano che arriva in celluloide. Ci sarà Capitan America, ma poi mi sembra di poter dire tutti i grandi sono diventati film. E come vanno invece le cose nel cinema italiano per quanto riguarda questo rapporto con il fumetto? In questi giorni si svolge a Napoli il Comic Con, che è la grande mostra, salone del fumetto, mostra mercato salone del fumetto e dell'animazione, e fra gli ospiti appunto di Comic Con a Napoli c'è Maurizio Nichetti, che è in collegamento con noi. Ciao Maurizio. Ciao, ciao a tutti. Allora Maurizio, grazie intanto per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Parliamo di cinema e fumetto. In Italia c'è un esponente che può coniugare queste due arti, cinema e animazione più che altro nel tuo caso, ma insomma Maurizio Nichetti con film come Volere Volare, lì a Napoli si vedono Magic Show, SOS, film tra l'altro anche di una certa età e anche poco poco visti, e insomma tu ci puoi spiegare un po' com'è lo stato di salute nel rapporto fra queste due arti quasi coetanee, che mentre in America ogni anno sforna più e più film che dal fumetto diventano film, in Italia insomma questo rapporto mi sembra un po' arido, eppure materiale da fumetto da far diventare film ne avremmo molto. Ma guarda, io credo sia più che altro un discorso di rapporto tra cinema fantastico e cinema della realtà. Diciamo che il cinema italiano, sia nella sua componente di commedia all'italiana, sia nella sua componente più drammatica, il neorealismo e quant'altro, ha sempre, come dire, si è sempre identificato con un cinema della realtà. Il cinema fantastico, quando c'è stato, non è mai stato considerato italiano. Cioè, io quando facevo Ratataplan, Volere Volare, Stefano Quante Storie, Ladri di Saponette, mi dicevano sempre: ah, bellissimo, bellissimo, non sembra neanche un film italiano, perché gli italiani li identificavano con la commedia realistica, ecco, con un altro tipo di cinema. In realtà il cinema fantastico in Italia è sempre stato fatto, da Miracolo a Milano, pensa ai film di Ferreri, ai miei, al primo Lucchetti, ma gli stessi film di Moretti, che sono sempre dei film che escono dalla realtà documentale. sono sempre delle interpretazioni fantastiche delle sue fantasie, delle sue sensibilità. Pensa a Fellini, per cui abbiamo avuto tanti esempi di cinema che usciva dalla realtà. Cinema tratto dal fumetto è più difficile, perché in questi ultimi anni questo ha significato un cinema di grande tecnologia, cioè di grande virtualità. Non è un caso che dopo Superman, che è stato forse il primo eroe dei fumetti portato al cinema, è esploso il meccanismo dei supereroi, è esploso il meccanismo del cinema a effetto speciale, e questo ha coinciso con un grande sviluppo tecnologico. Ecco, il cinema italiano la tecnologia l'ha sempre rifiutata come un escamotage un po' infantile, e hanno sempre preferito invece appoggiarsi a temi molto realistici. Ecco, tra l'altro, appunto, ci sono stati casi, ricordo un vecchio Tex con Giuliano Gemma, ricordo il recente di Landog, che però arriva dall'America, guarda un po', mentre Della morte dell'amore arrivava dall'Italia. Ecco, qualche caso sporadico c'è, eppure dicevo, materiale potrebbe essercene molto. C'è un personaggio dei fumetti che a Maurizio Nichetti, regista, piacerebbe portare sul grande schermo? Ma sai, diciamo che quelli portati e trasportati poi nel cinema, diciamo così, dal vero, ecco, pur con tutti gli effetti speciali, sono supereroi. Il nostro supereroe è Ratman, per cui è un supereroe in parodia, per cui mi piacerebbe vedere Ratman su grande schermo, fatto magari tridimensionale, chissà. Ormai Ortolani è riuscito a fare già il fumetto tridimensionale, per cui un giorno gli auguro di riuscire ad arrivare anche a un lungometraggio. Ecco, pensiamo, per esempio, mi viene in mente un altro antieroe del fumetto italiano come Super Chuck, il mitico protagonista di Alan Ford, no? Ricorderai anche quella del gruppo TNT sarebbe una saga, altro che A-Team per il fumetto italiano. Però sai, queste saghe vanno fatte con un investimento di capitali che il nostro cinema non è abituato e non se lo può permettere, diciamo la verità. Insomma, abbiamo dei problemi proprio di mercato internazionale che si possono permettere solo certi prodotti americani di lingua inglese che hanno una distribuzione garantita a livello globale. Ecco. Certamente. Allora, grazie a Maurizio Nichetti. Ricordiamo il Comic-Con in questo fine settimana proprio a Napoli, e con Maurizio Nichetti ospite. Maurizio, ce l'hai un film in caldo da preannunciare ai nostri ascoltatori? Su cosa stai lavorando? Guarda, in questo momento sto lavorando a due o tre progetti diversi. Diciamo che quelli più difficili da far partire sono proprio quelli fantastici. Ecco, io ho nel cassetto un seguito di Volere Volare ormai da più di 8 anni, però insomma ci ho messo 8 anni a trovare i soldi per Volere Volare, stanno passando gli stessi anni per trovare i soldi per fare il seguito. Beh, allora vuol dire che l'anno prossimo lo aspettiamo questo film. Speriamo. Perfetto, grazie Maurizio e buon lavoro lì a Napoli. Grazie, ciao a tutti. E a questo punto noi abbiamo chiacchierato appunto anche del rapporto fra cinema e fumetto con Maurizio Nichetti in collegamento dal Comic Con di Napoli. È arrivato il momento di giocare con il nostro Blu-ray game. Ancora una volta vi proponiamo un grande film in alta definizione, facendovi ascoltare 3 frammenti che rimarranno misteriosi fino a quando qualcuno di voi non li avrà indovinati. Cominciamo col primo. Quello spregevole traditore. Non possiamo fidarci di nessuno. L'hanno rapita perché lui mi appoggiava. Era solo disperato. Allora, avete già capito di che film si tratta? Secondo me sì, perché è una voce inconfondibile nel doppiaggio. Questa, La Rosa Purpurea, @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica dove rispondeci, titolo e indirizzo vostro, e come sempre Blu-ray in palio per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Più tardi, un'altra possibilità. Oh, siamo arrivati a un altro film che esce in questo fine settimana. Nei nostri titoli di testa l'abbiamo definita la sorpresa, il film più sorprendente del weekend, ed effettivamente è così, perché forse su questo Source Code non molti erano pronti a scommettere nell'arrivo in sala, tra l'altro in questo tardo aprile. E invece grandissimo gradimento da parte della critica e del pubblico per questa storia interpretata da Jake Gyllenhaal, una storia che mischia azione e una fantascienza però tutta terrena. Jake Gyllenhaal, dicevamo, nei panni di un soldato che fa parte di un programma sperimentale del governo per prevenire attacchi terroristici, e che si trova a vivere in loop praticamente più e più volte la stessa tragedia fino a quando non riuscirà, questo grazie alla tecnologia ovviamente, fino a quando non riuscirà a sventarla, cioè a capire dove stanno i terroristi che vogliono far esplodere questo treno che diventa una vera e propria bomba in corsa. Allora sentiamo un po', cerchiamo un po' di entrare nel clima del film con questa clip. Tu mi conosci bene? Non tanto bene quanto pare. Mi conosci a tal punto da fidarti di me anche se io facessi qualcosa che sembra un po' strana e pericolosa? Ci riusciresti? No. Fantastico, e viva la sincerità. Sei bellissima, sei gentile e sei sincera da far male. Che faresti se ti restasse da vivere solo un minuto? Non lo so. Io chiamerei mio padre. Ascolterei la sua voce e gli direi che mi dispiace. Questo è uno dei momenti più intimi del film, quando appunto Jake Gyllenhaal sul famoso treno, che non è dei desideri in questo caso, ma è un treno che esploderà da un momento all'altro, si innamora di Michelle Monaghan, insomma, come dargli torto, ma nel frattempo lui è appunto coordinato da lontano da questo staff governativo, capitanato da una ferrea Vera Farmiga che gli dà le informazioni proprie e cerca soprattutto di ottenere le informazioni di ritorno sulla collocazione all'interno del treno dei terroristi. Ascoltiamo quest'altra clip. Alle 7:48 di questa mattina, ora standard centrale, è esplosa una bomba su un treno di pendolari fuori Chicago, uccidendo tutti i passeggeri. E quello è il treno su cui si è trovato. No, io sono qui, lei sta parlando con me adesso. Su quel treno c'era un uomo che si chiamava Sean Fentress. Quell'uomo, a tutti gli effetti, ora è lei. Ogni secondo speso a dare spiegazioni mette a rischio altri civili innocenti. Non ha senso. L'esplosione sul treno era il primo di una serie di attacchi. Ce ne saranno altri. Allora, ha trovato la bomba? Nel bagno. Pannello di ventilazione sopra il lavabo. E allora questo è un po' il lavoro un po' ingrato di questo Coulter, interpretato da Jake Gyllenhaal. Un saluto a Boris Sollazzo. Un saluto a tutti, un saluto a te Franco. Allora Boris, abbiamo definito un film molto sorprendente. C'è un po' anche, non dico del memento di Chris Nolan, ma insomma questo gioco di andate e ritorno della memoria di circuito chiuso in cui rivivere la stessa esperienza, ricorda un po' quel tipo di film. Assolutamente, c'è anche qualche serie televisiva moderna in questo racconto che veramente si avvale di pochissimo per essere così sorprendente, cioè racconta una storia e un ambiente ridottissimi, un treno o addirittura una capsula, quella in cui è Coulter, in cui Vera Farmiga lo interroga, non gli dà informazioni ma ne pretende, gliele dà e gliele centellina. Duncan Jones, figlio tra l'altro di David Bowie, a dimostrazione che spesso l'arte si eredita, è un fenomeno. Lo sospettavamo con Moon, che fu a mio parere il film di fantascienza più bello dei tempi di Blade Runner, e ne abbiamo la conferma con questo South Scott, che secondo me diventerà un cult molto presto. È di sicuro il film della settimana, ma rischia di esserlo della stagione. Potrebbe, a mio parere, anche a livello di incassi sorprenderci, perché non ha davanti sfide incredibili ed è davvero un gran bel film, sorretto da una fotografia straordinaria, da una regia che non perde mai il ritmo. E vorrei ricordare, perché pochi l'hanno sottolineato, la sceneggiatura di Ben Ripley, che è davvero a prova di bomba in tutti i sensi. E con questo gioco di parole che concediamo al nostro Boris Sollazzo, insomma, pienamente promosso Source Code come film della settimana anche dalla Rosa Purpurea. Chiaramente in classifica dovrà vedersela un po' con Thor, ma insomma su Thor ci sono, come dire, bisogna vedere un po' come funziona in Italia, perché il fumetto, come abbiamo detto, è mitico, ma non è forse quello che aveva attecchito di più fra il pubblico italiano, certo non come i Fantastici 4 oppure l'Uomo Ragno, per intenderci. Quindi insomma potrebbero esserci davvero delle sorprese nella vetta della classifica, che attualmente è occupata sempre da Rio per la seconda settimana consecutiva. Al secondo posto ci Abbiamo Papa, per la seconda settimana consecutiva, di Nanni Moretti, con un totale di 3 milioni già incassati al cinema, e una new entry al terzo per Faccio un salto all'Havana, che è il film più visto fra quelli nuovi usciti la scorsa settimana. Continua la sua corsa anche un altro film d'azione di notevole qualità come Limitless di Neil Burger. E questo a dire anche che appunto è un periodo in cui forse le sorprese arrivano proprio dal genere dell'azione cinematografica. Grazie a Boris Sollazzo e ci risentiamo. Ciao Boris. Grazie a te Franco, un saluto a tutti. La rosa purpurea. Non sarà facile per me, e non sarà facile per te. La voce vellutata di Ornella Vanoni che ci introduce in questa terza parte della Rosa Purpurea per parlare di Notizie degli Scavi, il ritorno al cinema di un grande autore, di un grande regista del cinema italiano. Fra poco lo sentiremo qua in onda con noi in collegamento. Emidio Greco firma appunto Notizie degli Scavi, un film che, come sentiremo, ha avuto una lunghissima gestazione, almeno ideale. È un film tratto da un racconto degli anni 60 di Lucentini, quindi, come dire, anche una maternità, una paternità anzi importante in termini letterari, e racconta la storia di un uomo, possiamo definirlo forse un uomo senza qualità, citando Musil, chi lo sa, però un uomo che viene chiamato il professore, che si arrabatta facendo un po' il tutto fare in una casa piuttosto equivoca, diciamo così, della periferia di Roma. Le sue storie di amicizia solo presunta, solo momentanea, con le donne che lavorano in questa casa non soddisfano certo la sua voglia di esprimere la sua umanità, ma a un certo punto la sorte lo porta ad incontrare invece la Marchesa, una misteriosa ex donna appunto che lavorava nella casa di qui sopra, guidata da una iaia forte col pugno forte, e permettetemi il gioco di parole, da una donna che lavorava lì e che dopo una disavventura amorosa e aver tentato anche il suicidio giace in un letto d'ospedale, interpretata questa invece da Ambra Angiolini. Allora il nostro professore, che è Beppe Battiston, si trova a coltivare finalmente un rapporto con qualcuno che lo ascolta, anzi che ha bisogno di sentirlo parlare, e questo chiaramente cambierà totalmente anche il senso dell'utilità della propria vita. Direi di entrare un po' in atmosfera con una clip del film. Tu te la ricordi la Marchesa? Quell'altra che stava da noi? Sì, quella carina che chiamavamo la Marchesa, te la ricordi? Sì, una secca. Mica tanto secca. Anzi. No, non lo so, non me la ricordo tanto bene. Perché? Perché? Dunque, ecco, siccome io e lei, siccome insomma io con questa Marchesa... Sì, me l'ha detto Gina. Gina? Ma che ne sa Gina? Ah, no, credevo... No! Avete sentito dialoghi molto, come dire, serrati, con poca argomentazione, ma molto, molto un botto e risposta letterario, che poi è tradotto proprio dal libro e che viene tenuto dentro il film quasi a significare un linguaggio senza tempo, un linguaggio dell'anima, che non ha bisogno di essere radicato nello slang contemporaneo. Infatti, pur se la vicenda è riambientata ai giorni nostri, in realtà non si sente il bisogno di stabilirne una collocazione. Salutiamo allora Emidio Greco, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Emidio, intanto io sono contento di averla qui, perché uno dei miei film di formazione è stato Una storia semplice, quindi, come dire, è un grande onore, un grande privilegio. Grazie. Poter ospitare qua. Qui lei, dicevamo prima, ha avuto questo film una gestazione ideale molto forte, perché lei l'aveva pensato addirittura uscendo dal Centro Sperimentale di Cinematografia. No, per entrare al Centro Sperimentale. Addirittura, quindi ancora prima, perché se voglia. Lessi il racconto che uscì nel 64, siccome dovevo fare il concorso al Centro Sperimentale, siccome ci chiedevano una sceneggiatura, ho pensato che Notizie degli Scavi fosse per me all'epoca l'ideale. L'ho scritta subito la sceneggiatura, mi hanno preso al Centro Sperimentale, poi nel corso del tempo ci ho pensato anche un paio di volte di fare il film, non ho insistito evidentemente più di tanto, e poi di recente ho pensato che, ho creduto e sono convinto che alla fine il tema di fondo del racconto sia, può apparire paradossale, più attuale oggi che non addirittura nel 64 e mi sono detto perché no, devo fare questo film, sono felice di averlo fatto per come è venuto, certo sono interessato, ci mancherebbe, però insomma davvero sono molto convinto, l'ho fatto nelle condizioni migliori perché ho avuto degli attori assolutamente straordinari. Assolutamente, c'è un grosso lavoro, per esempio anche sulla pronuncia, sul linguaggio, sull'accento, no? C'è questo fatto notato, per esempio, che si dice sempre stare al posto di essere, che è una cosa tipica, per esempio, del centro Italia, di certe parti del centro Italia. Beppe Battistol lo interpreta perfettamente. Leggendo il racconto, però, non so se lei ha avuto questa sensazione, c'è la sensazione che il protagonista possa essere un uomo un po' più, come dire, più in là con gli anni e un po' meno impacciato, un po' meno candid rispetto a Beppe Battiston. Ecco, è una mia sensazione, secondo lei, o c'era questo ma lei ha voluto deviare un pochino il corso del personaggio nel film? No, questa sua osservazione è molto precisa, tant'è che, ripeto, lungo i 47 anni, ma soprattutto all'inizio, l'ho sempre pensato più vicino, cioè tra i 55 e i 60, diciamo. Poi quando ho avuto la possibilità reale di fare il film, mi sono accorto che avrei commesso un errore, perché l'elemento anagrafico, o se si vuole addirittura senile, poteva entrare a motivare, diciamo così, il personaggio, e questo sarebbe stato a mio avviso un errore. Il professore, che è tutt'altro che un professore, va da sé, è un uomo giovane ed è nella condizione psicologica nella quale si trova, diciamo tra virgolette, di disadattato, non per ragione appunto, per esempio, di natura anagrafica, ma perché è, a mio avviso, alla fine un suo modo di essere che lo mette al riparo, diciamo così, dalla realtà, chiuso in un suo mondo, sempre spiazzato rispetto alle contingenze, però è una forma di difesa, va da sé che la realtà si incaricherà di rompere, no? Questo guscio nel quale si è rinchiuso, ecco, e il fatto che sia appunto un uomo giovane toglie ogni elemento di natura psicologico, sociologico, un po' d'accatto, francamente, anche. Questo mi piace. Poi l'idea che mi è venuta di pensare a Battiston mi sembra assolutamente un regalo. Mi sono fatto da solo un regalo, perché Battiston è, uno può pensare del film quello che vuole, ci mancherebbe. Ma Battistone è mirabile, assolutamente mirabile. Straordinario. Come devo dire, anche mi è piaciuta molto Ambra Angiolini, che deve soffrire in silenzio, deve sorridere a una sorte che invece è lì, che appollaiata come un corvo sul suo letto, insomma, non male. C'è questo poi dopo non vogliamo svelare neanche molto, ma ci sono queste lacrime finali che sono una cosa veramente toccante. Ambra è una vera sorpresa, eh? Non è una sorpresa, perché in verità lei era brava di suo, evidentemente. Io l'avevo vista soltanto nel film di Ospetek, però ci ho pensato, dico, ma lì è perfetta, intanto fisicamente, perché in lei convivono due aspetti, secondo me. Uno è una sorta di naturale malinconia, ma dall'altro anche una naturale ironia. Pensavo che fosse brava, non credevo che fosse bravissima, e poi è di un professionismo ammirevole, davvero ammirevole, e per il modo in cui in Italia molti film vengono fatti, cioè vuol dire con molti sacrifici, il fatto che poi gli attori in questo caso, ma anche altri, ci mancherebbe, siano dei professionisti, è un vero piacere. Grazie Emidio Greco. Grazie a lei. Appuntamento allora al cinema con Notizie degli Scavi. E allora abbiamo parlato di Notizia degli Scavi di Emidio Greco e siamo alla seconda traccia misteriosa del Blu-ray Game di oggi. Ci sono venuta con mamma e papà anni fa. È come me la ricordavo. Gli alberi, il fiume, ogni cosa. Come se nulla fosse cambiato. Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci di che film si tratta con il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità di questa puntata. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago. E allora siamo ancora a un nuovo film che arriva nei cinema italiani. La colonna sonora, la canzone che sentite, fa parte della colonna sonora di Angèle et Tony. Film che ha davvero convinto, oltre che vinto, molto, perché ha preso premi come miglior opera prima francese dello scorso anno ed è un film che fortunatamente, dico, arriva nei cinema italiani perché lo merita davvero. 85 minuti densi di grande poesia ma anche di un realismo molto toccante. La storia di una ragazza, una vagabonda un po' scombinata appena uscita dal carcere, si chiama appunto Angèle. Vorrebbe avere l'affidamento del figlio, che nel frattempo era stato affidato in custodia ai nonni, e per fare questo ha bisogno di un lavoro. E allora questo lavoro va a cercarselo in Normandia, nel nord della Francia, in un borgo di marinai. Mette un annuncio su un giornale, cerca anche marito, e a questo annuncio risponde Tony, che è un marinaio, un pescatore, un uomo grande e grosso, di grandi principi, un grande lavoratore. Chiaro, hanno una fisicità molto diversa i due. Lei bella, bellissima, eterea, slanciata. Lui un uomo di mare, un uomo di fatica. Ma queste due differenze pian piano sembrano cominciare ad attrarsi e soprattutto sono attratte anche appunto sotto il profilo fisico in maniera molto viscerale. La ragazza va a vivere nella casa con qualche, diciamo, negatività da parte soprattutto della madre di Tony, va a vivere nella casa di lui. Questo rapporto quasi formale diventa poi fattuale, fino a coinvolgere tutti verso un lieto fine che sembra dietro l'angolo, anche se sempre con una vena di fatica e di rigore dietro gli sguardi dei due protagonisti. Allora ascoltiamo un attimo una clip del film. Lo fai spesso? Cosa? Di mettere gli annunci. Sì. Perché ti sei trasferita qui? Il lavoro. Posso tenere la camera? Non abbiamo bisogno di nessuno. Vuoi scopare? Non conosci un altro modo di parlare? Tu come dici? Non così, non scopare. Lo sai da dove viene, riconosci i suoi. Perché dormi sulla barca? Questo è un passaggio importante del trailer di Angèle et Tony. Avete sentito appunto anche la madre di lui, insomma, abbastanza irrigidita dalla presenza di questa ragazza senza passato, no? Che soprattutto in un borgo così di provincia, quando non si sanno le origini e le provenienze dei cosiddetti forestieri, diventa tutto molto molto difficile. È una regia, quella di Alix Delaporte, che ricorda la lezione di un grandissimo maestro del cinema francese come Eric Romer. Lo ricorda molto, anche se nei film di Romer si parlava pochissimo, oppure si parlava tantissimo apposta. E invece qui c'è un giusto ruolo e un giusto peso del dialogo. Ma la cosa davvero convincente è l'alchimia quasi locciana di due mondi, uno super proletario e l'altro appunto di provenienza dubbia, che si mettono insieme e che trovano un modo di convivere, di coesistere. È forse appunto il motivo per cui ci si affeziona molto ai personaggi di questo film. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, la parte finale del nostro programma è come sempre dedicata alle visioni domestiche, al cinema da vedere in casa, cominciando dalla TV, dai canali cinematografici e non del digitale terrestre, che propongono come sempre ottime soluzioni per una buona serata di cinema. Noi lo facciamo come sempre in collaborazione con gli amici del settimanale Film TV. Oggi abbiamo dato un'impronta decisamente risorgimentale alle nostre scelte. Ne parliamo con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana segnaliamo tre film legati a Visconti e al Risorgimento. Il primo film è Senso su Rai Movie, domenica alle 9, un melò di Visconti in cui la sconfitta personale dei personaggi è specchio di una sconfitta ben più radicale e più profonda. Viene sconfitto l'amore, viene sconfitta l'aristocrazia e soprattutto viene sconfitto il risorgimento come rivoluzione popolare. Grandissimo film di Visconti del 54, Senso, domenica su Rai Movie alle 9 del mattino. Se non siete svegli, puntate il registratore, perché se non l'avete visto è un recupero assolutamente da fare. Ma dicevamo, clima risorgimentale, addirittura due scelte dedicate in qualche modo al Gattopardo. La seconda segnalazione riguarda due film. Il primo è L'ultimo Gattopardo, domenica sulla 7 13:55, ritratto di Goffredo Lombardo ad opera di Tornatore, film che è candidato ai David di Donatello come miglior documentario. Il film ricostruisce la vita e la carriera di questo grande produttore che fondò la Titanus, con testimonianze d'epoca e di oggi di chi lavorò con lui. Il secondo film appunto è Il Gattopardo, sempre sulla 7, domenica alle 21:30. Il Gattopardo è il film più popolare di Visconti, un affresco sontuoso di un'eleganza decadente nel profondo che dice molto sui personaggi che mette in scena, ed è appunto un affresco sul passaggio della Sicilia borbonica a quella sabauda, ed è una critica profonda al trasformismo in quello che è appunto il film forse più famoso di Visconti. E allora L'ultimo Gattopardo, documentario di Tornatore, quindi documentario d'autore, sulla 7, domenica alle 13:55, sempre domenica, sempre sulla 7 alle 21:30, il film, il capolavoro di Visconti, Il Gattopardo. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. Ultima traccia del Blu-ray Game di oggi. Sono ancora qui, ma voi continuate pure. Non vorrei fare il guastafeste. Che c'è che non va? Che non va? Non c'è niente che non va. Non secondo te, comunque. Senti, se hai qualcosa da dire, non essere timido. Sputa fuori. D'accordo, sputerò fuori. Titolo e indirizzo, se avete indovinato di che film si tratta, alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Sveleremo la settimana prossima l'arcano e i vincitori, come facciamo adesso col game della scorsa settimana. Ti rendi conto di come stai, Jack? Sei preoccupato per la sorte di una donna poliziotto e vorresti prendere l'aperitivo con una che ha provato, sì, ad ammazzarti. Hai sentito cosa ho detto? Secondo te questo vecchione è il suo fidanzato? È l'unica foto che c'è. Allora ci andrò da sola a Detroit, va bene? Era Out of Sight, questo il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Lo hanno indovinato per primi e vinto Marco Firrinceli di Milano e Pierpaolo Marrone di Trieste, che riceveranno proprio il Blu-ray di questo film. E noi siamo già in collegamento con Claudio Poffi per farci raccontare un po' questa edizione in Blu-ray. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, la black comedy sofisticata di Steven Soderbergh arriva su Blu-ray grazie a Universal. Il risultato è sicuramente superiore rispetto al precedente DVD, anche se rimane identica l'offerta per la traccia in italiano con la sola Dolby Digital multicanale, che non può sicuramente competere con l'originale VTS ad alta risoluzione. Ci sono alcuni extra interessanti, tra cui su tutti sicuramente il commento audio del regista e dello sceneggiatore per tutto il film. E questo per quanto riguarda allora il game della scorsa settimana, Out of Sight. Noi andiamo alle recensioni invece di questo weekend, partendo da un film proprio del 2010, un film recente italiano con un protagonista straordinario come Tony Servillo, che predilige lavorare con registi esordienti o comunque meno conosciuti. In questo caso la regia è di Claudio Cupellini, il film è Una vita tranquilla. Sì, Anderosa. Io ti volevo chiedere scuse per quella cosa di prima, ma la dita ci pensano poco contro. No, io non andiamo d'accordo. Poi mi conoscono tutti quanti, è tutta gente per bene. Io non tengo nessuna intenzione di fare figure in merda. Hai ragione, Rosa, scusa. Se tu vuoi fare una chiavata, tieni un albergo a disposizione. Che significa sto burdele di indocesso? Amico, io già da chiedersi scusa. Io e te non siamo amici. Gli amici mi si sanno comportarsi, noi caccia causa il culo. Mi sono spiegata? Che si sta sbagliando? Ma sono spiegata? Si è spiegata, Rosato, si è spiegata. Rosario Russo, apparentemente una brava persona che con un polso fermo gestisce un agriturismo italiano in Germania assieme alla moglie e al figlio. Una vita tranquilla spezzata dall'arrivo di due giovani napoletani in zona per lo schiaffari che faranno riaffiorare il torbido passato di Rosario. In questa seconda opera di Claudio Cupellini si respira un cinema interessante sia nella forma che nel contenuto per un dramma con richiami di cronaca. Tony Servillo, come sempre, monumentale. Edizione DVD e Blu-ray da 01 Rai Cinema, qualità Blu-ray sicuramente superiore per le immagini, ma anche per la colonna sonora che oltre alla traccia Dolby Digital multicanale offre anche la DTS ad alta risoluzione. Attenzione che entrambe le tracce audio offrono dialoghi misti italiano-tedesco con sottotitoli all'occorrenza. Come extra segnalo un breve making of. E questo per quanto riguarda Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. L'ultima segnalazione della settimana riguarda invece un film con un'atmosfera decisamente storica. Stiamo parlando di Stalingrado. Qui Seidelz. Sì, dammi le previsioni del tempo. Forte gelo, suolo gelato, fiumi e ruscelli ancora gelati. Così diamo l'addio ai cannoni. Mi basta e chiudo. Già, non lascerei fuori neanche un cane. Ha proprio ragione, Clausius. Ma almeno noi dovremmo uscire. Agli ordini, generale. Sono stanco di aspettare. Siamo nell'autunno del 42, la sesta armata tedesca che assedia Stalingrado si trova in piena impasse, privata dei rifornimenti, subisce la controffensiva russa mentre Hitler ordina di resistere a ogni costo. Nonostante gli atti di eroismo sarà impossibile impedire la disfatta. Prima del capolavoro di Josef Wiesmayer del 92, già nel 59 Frank Weisbar raccontava il dramma di Stalingrado, della sesta armata nazista assediata dal freddo e dall'esercito nemico, in un affascinante bianco e nero racconto umano visto dalla parte dei tedeschi. L'edizione Koch Media in DVD è di buona resa, formato immagine televisivo ma è rispettoso dell'originale. C'è una doppia offerta audio Dolby Digital monofonico italiano e tedesco. Per gli extra solo due trailer del film e galleria foto. E allora grazie a Claudio Poffi che ci ha raccontato anche Stalingrado. Io prima di salutare Claudio voglio però da fargli complimenti, perché insomma Claudio è il nostro mentore dell'on video da una decina d'anni ormai quasi, e adesso è diventato anche direttore, quindi dobbiamo chiamarlo direttore Poffi, perché è nata una nuova rivista diretta proprio da Claudio Poffi che si intitola semplicemente Bollywood, ed è assolutamente un programma questo titolo, perché si occupa ovviamente del grande cinema indiano che insomma ha stregato un po' tutti anche in Occidente, che ha vinto Oscar anche se non era molto bollywoodiano in quel caso con The Millionaire, ma che insomma è una cinematografia importante, la più imponente del mondo in termini quantitativi. Insomma adesso ha anche un mensile che si rivolge a tutti gli appassionati di questo cinema anche in Italia. Claudio. Sì, Franco, sicuramente. Beh, questa è la prima rivista che si è dedicata interamente al mondo del cinema indiano, della televisione, delle star, delle starlet, di tutto l'entertainment che gira all'interno di un paese così importante come l'India, che ha migliaia di produzioni all'anno, che fa girare tantissimi soldi e che finalmente inizia a esportare film anche all'estero, non solo quelli più importanti. Quindi una magazine mensile che terrà l'occhio sulle produzioni in corso, su quelle in uscita, che magari speriamo un giorno arriveranno anche da noi nelle sale italiane. Chissà, in attesa di vedere qualche film bollywoodiano in più anche dalle nostre parti. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E siamo allora in chiusura di trasmissione per darci appuntamento alla prossima settimana. Nel prossimo weekend, il primo weekend pienamente di maggio, arriverà nelle sale un film importante, forse più di uno in realtà, ma voglio segnalarvene due. Uno è il film che è anche tra l'altro terzo in questo momento in classifica in America, ovvero Come l'acqua per gli elefanti, perché c'è il ritorno di Robert Pattinson e quindi tutti gli adepti di Twilight e dintorni saranno già le adepte probabilmente saranno già in fibrillazione. Ci sarà anche Macete di Robert Rodriguez, che è stato uno dei film più sorprendenti della scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e ci sarà un film di cui parleremo che promette molto bene, un film italiano, La misura del confine, di cui avevamo raccontato la nostra visita sul set in altura nel Monte Rosa, sul Monte Rosa qualche mese fa, e che adesso finalmente trova la via della sala. Insomma, come sempre, grandi contenuti e grandi ospiti qui alla Rosa Purpurea. Il sabato alle 18, la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisti.